Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ancora molta Europa per quello che riguarda i temi, infatti c'è già un'indiscrezione sulla prima bozza che dovrebbe uscire la settimana prossima. C'è il Consiglio Europeo importantissimo in cui andrà Mario Monti per l'Italia, una bozza in cui si dice sostanzialmente, senza esagerare, che l'austerità, i tagli devono essere interpretati a favore della crescita, e questo per quello che riguarda il tema europeo. In realtà anche oggi parleremo di Europa e di rischio Italia, ma quasi in chiave positiva. Spiego perché, prima di essere preso per pazzo. E cioè, lo spread è sceso anche sotto i 300 punti. Vale la pena ricordare che anche per la Spagna lo spread è ai minimi da marzo del 2012, a 321 punti. Il nostro è arrivato a 302 e poi è sceso a 298. Solo il 2% degli italiani ritiene che alla fine l'Unione Europea potrebbe abbandonare l'euro, il sondaggio di Eurobarometro di oggi, mentre in Inghilterra, le riportano i giornali, il Daily Telegraph nell'occasione, sono sempre più influenti gli euroscettici del partito di Nigel Farage, che si è incontrato per la prima volta con Rupert Murdoch. E questo sarà anche l'occasione per chiedersi, nella seconda ora del programma, quanto i mercati, e quindi lo sguardo sull'euro, potranno aspettare un governo italiano. In questo momento sembra, lo dico con la massima neutralità, che ci sia che diano ancora del tempo all'Italia. Cioè, la borsa oggi a Milano è positiva più delle altre borse europee, ma comunque non è stata una borsa, diciamo, allarmante in queste settimane. Lo spread, dopo la piccola fiammata iniziale, è ritornato a quota 300, 302 punti, 310, 298, e l'euro, devo dire, che si mantiene sempre a quota 1,2980, 1,30. Dicevo, quanto potranno aspettare i mercati, sembra che un po' di attesa la possono mettere, e che cosa potrebbe uscire da un Consiglio Europeo in cui, obiettivamente, anche qui lo dico in maniera molto neutra, sarebbe stato il caso che l'Italia andasse con un Presidente del Consiglio, non con un Presidente del Consiglio facente funzione di uscente, e tra l'altro dove il voto politico, mi riferisco a Monti, chiaramente il voto politico non ha nemmeno premiato, diciamo, la lista civica di Monti, non, perlomeno non come loro si attendevano. Questo per quello che riguarda la seconda ora del programma. Nella prima ora invece parleremo di un insieme di cose, di pubblico impiego e contratti, in realtà, perché c'è una nota che riguarda la Fiat, dove è arrivato un aumento, il primo aumento dopo anni, ma è passato in Consiglio dei Ministri il codice per gli statali, anche se sono slittate le incompatibilità. C'è un tetto per i regali ai dipendenti pubblici, non possono ricevere regali superiori ai 150 euro, giro di vita anche sui telefoni e le auto solo esclusivamente se in servizio, e anche sul conflitto di interessi dei dipendenti. Mentre dalla Francia, poi lo racconteremo, è arrivato un via libera all'accordo sulla competitività. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Diciamo della borsa: più 1,54% Milano, più 1,12% Parigi, più 0,50% Francoforte, più 0,40% Londra, più 0,30% l'America, euro su dollaro quota 1,2980. Diasorin, peggior titolo, meno 6,50%, Autogrill meno 3,60%, Azimut meno 1,20%, Campari meno 0,70%, Eni meno 0,50%. Fiat meno 6,30, Finmeccanica meno 5,20, Enel meno 4,26, A2A meno 4 come Mediaset e Telecom Italia, Mediobanca meno 3,60 come Mediolanum, Unicredit meno 3%, scusatemi, più 3% come Lottomatica più 3%, Saipem più 3, Banco Popolare più 2,80, Generali più 2,20 e Popolare di Milano più 2%. Chiaramente anche quelli prima erano in crescita, Fiat più 6,40. Gli ridò, dai. Finmeccanica più 5,17, Enel più 4,26, Telecom più 4, Mediaset più 4, A2A più 3,80, Mediobanca più 3,70. E chiaramente i titoli bancari si avvantaggiano anche dello spread in calo, è sempre un riflesso quasi automatico in borsa. Materie prime, l'oro in calo a $1,576, in calo per il secondo giorno consecutivo. Il petrolio apre in calo a 91 dollari al barile a New York. Il dato che riguarda l'economia americana di oggi è un dato migliore delle attese, perché l'economia americana ha creato a febbraio 236.000 posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione che è calato al 7,7% contro il 7,9% di gennaio. Dalla Cina corre l'export a febbraio più 22% quasi sopra le stime. Tokyo chiude, questa mattina ha chiuso molto bene, lo segnalo, più 2,60%. È tornata la borsa di Tokyo, dopo già quella americana, è tornata al livello pre-crack di Lehman Brothers e quindi sostanzialmente a quota 12.214 punti. L'indice di Francoforte ha superato gli 8.000 punti per la prima volta dal 2008. E ancora, per quello che riguarda invece la notizia dall'Italia, segnalo l'intervento del Presidente della Repubblica Napolitano. I nostri GR l'hanno già fatto sentire, però Napolitano ha detto sostanzialmente, parlando al Quirinale, la crisi non aspetta, l'Italia si dia un governo, per i Presidenti delle Camere auguro un clima disteso. E poi ha anche aggiunto il Presidente della Repubblica, dobbiamo superare questo momento di crisi, che serva più presto un governo che dia stabilità, lo ha ricordato oggi anche il Presidente di Confindustria Squinzi, dicendo di essere in totale sintonia con il pensiero espresso dal Capo dello Stato. Ma l'economista chiamato Mr. Dr. Doom, perché fu il primo a prevedere lo scoppio della crisi un anno prima, mi riferisco chiaramente a Nouriel Roubini, oggi ospita workshop Ambrosetti a Cernobbio, ha detto: il rischio di nuove elezioni in Italia è dietro l'angolo, ci stiamo muovendo verso nuove elezioni nei prossimi mesi, comunque entro l'anno le forze populiste che sono contro l'austerità si rafforzeranno e questo porterà incertezza finanziaria sull'Italia. E poi oggi è intervenuto anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha detto c'è stato un uso improprio ed eccessivo della finanza e di strumenti strutturati, quindi derivati, ma non solo. La finanza è anche positiva, ma attenzione alle lobby del settore finanziario, è importante che i regolatori e i supervisori stiano attenti a mantenere a debita distanza dalle lobby. E poi ha chiesto di nuovo il governatore della Banca d'Italia che vengano riviste le politiche di remunerazione, quindi bonus soprattutto, dei vertici delle banche, devono essere allineati i compensi ai risultati di lungo periodo, evitare gestioni miopi o inutilmente rischiose. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu dai delle remunerazioni a breve, all'anno, il bonus per l'anno, rischi di creare, di pompare l'andamento del titolo e del bilancio, perché perché ti serve per beccare il bonus e poi quando te ne vai resta la polvere sotto il tappeto, restano le macerie. E allora dice Visco, evitare gestioni miopi, o inutilmente rischiose, perché un'altra caratteristica, se tu vuoi prendere il bonus e magari di prenderti dei rischi impropri per cercare di arrivare ai risultati che ti permettono poi di far scattare il bonus, no, gli obiettivi che dovevi prefiggerti e che dovevi raggiungere. Ecco, tutto questo rischia di generare distorsioni e dice appunto Visco, bisogna allineare i compensi ai risultati di lungo periodo. Nel frattempo, mentre per i vertici delle banche il problema è, diciamo, di dare dei bonus intanto più calmierati e poi collegati all'andamento del medio-lungo termine della banca, le banche a loro volta prestano sempre meno soldi alle famiglie e alle imprese. Secondo la Banca d'Italia, anche in questo caso a gennaio, i prestiti sono scesi dell'1,6% rispetto a gennaio del 2012. E tra l'altro quelli alle famiglie hanno fatto meno 0,6, quelle alle imprese, il dato è molto pesante, meno 2,8% a gennaio, meno 2,2% era a dicembre rispetto a un anno prima. Vale la pena però ricordare ogni volta che le banche prestano meno soldi, un po' perché questo è l'ordine che è arrivato, lo sappiamo, ce lo scrivono anche i direttori di filiale in molte banche, ma anche perché imprese in difficoltà, con un'economia che rallenta e una recessione, chiedono anche meno soldi o magari chiedono finanziamenti a breve, finanziamenti non di qualità, che vuol dire non per progetti o investimenti, ma magari per pagare i fornitori o per spese correnti di breve respiro. Però su questo il Centro Studi di Confindustria è tornato a polemizzare con le banche, perché ha detto: attenzione, il calo del credito è dovuto alla riduzione dei prestiti operati dalle banche, non dalla riduzione della domanda da parte delle imprese. La flessione dei prestiti, aggiunge infatti Confindustria, è più marcata di quella del PIL, e questo indica che è stata una decisione autonoma delle banche ridurre i prestiti più che le imprese che non vanno a chiederli in banca. Ultima notizia, l'accordo raggiunto sul rinnovo del contratto Fiat, lo anticipavamo, 40 euro lordi da febbraio per 80.000 lavoratori del gruppo, l'aumento medio appunto di 40 euro lordi. Landini dice un accordo peggiorativo rispetto a un anno fa, il ministro tuttora in carica Fornero dice la firma è di per sé un fatto sempre positivo. Torneremo sulla Fornero tra un attimo, perché in realtà devo raccontare purtroppo ancora qualche elemento di colore, no, di colore nero su come utilizzano i soldi le nostre regioni. Abbassare tutte le regole più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Allora, niente. Per gli 80 consiglieri regionali della regione Lombardia, l'ultimo appuntamento di lavoro è dello scorso 19 dicembre. Poi c'è stata la campagna elettorale, non si è più riunito consiglio. Però lo stipendio continua arrivare regolarmente fino a marzo. Io lo dico, cioè è tutto legale, però è anche abbastanza strano, anche legale, ma è anche abbastanza strano che uno becchi 9.000 euro al mese fino a marzo, anche se l'ultima volta che ha lavorato è il 19 dicembre. Nel mondo normale non funziona così, lo dico anche se non c'è niente di illegale. E proprio in questi giorni l'ufficio trattamento economico del Pirellone sta spedendo ai consiglieri uscenti una lettera in cui si ricorda, a proposito di vitalizi, come sia facoltà dei singoli consiglieri versare i contributi mancanti e ottenere così il diritto a pensione e TFR. La corsa al riscatto dei contributi versati però è scattata da tempo, perché tra gennaio e febbraio in 15 avevano già fatto richiesta per vedersi restituire i soldi versati ai fini della pensione, che scatterà solo al compimento del 60° anno. Tra questi anche Renzo Bossi, e gli altri hanno comunque 2 mesi di tempo. Comunque i tempi d'oro stanno per finire anche in Regione Lombardia, perché la legge approvata dal governo Monti porterà l'indennità a scendere a 6.000 euro netti al mese. I fondi e i gruppi subiranno una riduzione del 40%, la voce personale dell'80%, la voce funzionamento. Va recepita entro luglio, altrimenti arriva un taglio dei trasferimenti da Roma. E adesso ci prepariamo al numero uno, Scopelliti, perché la regione Calabria non è che proprio viva un periodo d'oro come il resto del paese, a maggior ragione lì. Allora, nonostante il periodo di magra, gli sfizi, la casta dei politici calabresi se li vuole togliere tutti. Dopo lo scandalo, lo ricordate, ne abbiamo parlato, sulle spese generose del bilancio regionale, adesso si scopre un'altra cosa. Nel settembre scorso già ci occupammo dei 700.000 euro di spese di rappresentanza del Consiglio regionale. L'Emilia Romagna ne spende un sesto, ma i suoi abitanti sono il doppio, il PIL emiliano romagnolo è quadruplo rispetto a quello calabrese. Poi va sommata la spesa per il mantenimento dell'astronave, come si chiama, il palazzone della regione Calabra, cioè 78 milioni di euro all'anno per l'affitto, stipendi e spese varie, 140 mila euro per la stampa di un libro Il senso delle scelte compiute, voluto dal presidente della giunta Talarico, un gonfalone per la sala consiliare che è costato 3.500 euro, 500 mila euro, cioè mezzo milione di copertura assicurativa allargata, 10 bandiere tricolore dal costo di 12.000 euro, cioè ogni bandiera 1.250 euro, se ce lo dicevano le facevamo noi per molto molto meno le bandiere. Le spese telefoniche e postali, i rimborsi alla regione Calabria costano 2 milioni di euro l'anno. Le consulenze, 8 milioni di euro l'anno le consulenze. 7 milioni di euro se ne vanno per altri immobili presi in locazione perché quelli non bastano. E poi 300.000 euro quasi per viaggi, trasferte e missioni, 9 milioni per il personale delle segreterie, dulcis in fundo 92 milioni di euro l'anno per la manutenzione, 92.000 scusatemi, euro l'anno per la manutenzione di una delle tre auto blu a disposizione di Scopelliti. Scopelliti, se lei le ha eliminate, ridotte, ci chiami, 92.000 euro l'anno di manutenzione per un'auto blu. Ma non è tutto. Perché adesso si scopre anche che il governatore Scopelliti, per ristrutturare, riqualificare e arredare le stanze del suo ufficio di presidenza, ha speso 90.000 euro, che sono, diciamo, un monolocale nemmeno in una zona così, così brutta. 90.000 euro. Vogliamo mettere 4. Dai. Allora, 90.000 euro perché? Perché tutto è stato rifatto. Compresa anche la palestra, c'è un'area relax con palestra predisposta di tapis roulant, panca per il sollevamento peso ed altri attrezzi ginnici, quindi immaginiamo un presidente Scopelliti vigoroso, volitivo, mascellare, insomma, no? In forza fisica, e a lui va un applauso perché di questi tempi la salute è tutto. Noi invece ci occupiamo dei comuni mortali, di chi insomma non può avere la palestra dentro l'ufficio, no? Bellissima questa cosa, perché ma il bello è che nello stesso tempo al Tribunale di Roma c'è un cartello in cui dice che manca sui bagni, che manca la carta igienica, perché questo è un paese strano, no? Cioè, la pubblica amministrazione o le regioni sprecano per alcune cose, ma poi invece hanno i soldi, non hanno i soldi per la carta igienica. Sì, sarò anche patetico come scrive un ascoltatore, ma a me sembra più patetico dover parlare di queste cose che chi le dice, però ogni tanto si confonde il mezzo con il messaggio, mettiamola così. A proposito di statali, ascoltiamo anche che cosa ha dichiarato oggi il segretario confederale della UIL Antonio Fucillo, dopo che il Consiglio dei Ministri ha fatto partire il codice per gli statali. In realtà è slittato la parte che riguarda l'incompatibilità, ma c'è la stretta ai regali con un tetto di 150 euro, il giro di vita telefoni auto solo in servizio, la stretta sul conflitto interessi ai dipendenti. Sentiamo il commento della UIL, del segretario confederale Antonio Focillo, appunto al microfono della nostra Anna Migliorati. Intanto non è una novità, viene spacciata come una novità e come penalizzante nei confronti dei lavoratori. Questo esiste già dai tempi in cui era ministro Cassese, che veniva addirittura integrato nei contratti, e oggi è stato attualizzato. Ci sono alcuni aspetti che danno la sensazione di penalizzare i pubblici dipendenti, ci sono anche aspetti positivi, quello che per esempio prevede la tracciabilità e la chiara responsabilità di chi prende le decisioni, che va nel senso proprio della trasparenza che hanno chiesto i pubblici dipendenti. Una delle novità è l'allargamento dell'idea di conflitto di interesse fino ai parenti di secondo grado. Si intende anche i fratelli, ad esempio, quindi sì. O i famosi cognati. È ovvio che questo riguarda più la dirigenza che il semplice impiegato, perché poi le decisioni vengono prese ad alto vertice e quindi è un problema che riguarda loro che noi. È chiaro che da una prima valutazione può sembrare proprio che si sia voluto allargare troppo, ma che ci sia bisogno di combattere la corruzione credo che sia un fatto importante. Quindi secondo lei i dipendenti pubblici la prenderanno bene? Ma guardi, le ripeto, viene presentato come penalizzante, ma di fatto esisteva già, quindi di penalizzante è complicato pensarlo. Poi se si pensa che con questo si aggredisce gli sperperi, le spese e così via nella pubblica amministrazione, mi sembra un po' utopico pensarlo. Altro capitolo, l'uso ad esempio delle auto solo per ragioni di servizio. Si va a colpire un abuso delle auto blu secondo lei o non è anche questo a questo livello? Questa è una misura che va nel verso giusto. Insomma, in una battuta, vi piace? Ma guardi, le ripeto, ci piace. Non ci piace il modo come è stato presentato, perché sembra che serva a fare pulizia nella pubblica amministrazione con l'intento sempre di andare a colpire quello più basso nella scala gerarchica della pubblica amministrazione. Invece, ripeto, sono altre le cose, ho cercato di elencarle, su cui bisognerebbe aggredire l'amministrazione e renderla trasparente, che poi è quello che vogliono anche i dipendenti. I dipendenti da un'amministrazione trasparente, efficiente e funzionante hanno tutto da guadagnarci e non da perdere. Sorrido perché non vi dico i suggerimenti che stanno arrivando a scoppelliti. C'è chi dice: vado in piscina alle 7 del mattino, aiuta a lavorare meglio e costa 42 euro al mese. Infatti cioè, la palestra diciamo accanto all'ufficio invece il contratto del pubblico, o meglio il codice del pubblico impiego, vorrei analizzarlo con chi attualmente è appena stato eletto e quindi gli faccio anche i complimenti, ma per anni ha scritto di pubblico impiego e anche lavorato nell'agenzia che sovraintende l'ARA al pubblico impiego, professor Carlo Della Ringa, buonasera. Buonasera a tutti. Dovrei chiamarlo onorevole adesso, no? Perché lei è stato eletto con il PD alla Camera. Però in attesa... un po' strano, ma è così. Allora, in attesa del governo, lo chiarisco, io voglio il suo punto di vista come professore, poi quando vi sarà il governo vedremo anche che come commenterà l'attività dell'esecutivo, ammesso non concesso che ci sia e ammesso non concesso che abbia la maggioranza, abbia l'appoggio del PD. Che ne pensa di questo codice? Perché alcuni, la UIL dice, ma c'era già, vogliono spacciarlo come un elemento di efficienza. È corretto questo oppure c'è un passo in avanti? No, più o meno quello che ha detto Focillo è giusto. Diciamo che i messaggi in questa direzione sono sempre ben accetti, perché stanno a significare un cambiamento di orientamento, di mentalità e volontà di fare. Poi nel concreto si tratta per lo più di cose o che c'erano già o incrementali, come un giro di vite sui telefoni, le auto, che vanno nella direzione giusta, ma giustamente insomma sono misure che tagliano un po' alla superficie, il pelo dell'acqua, ecco, non affondano. Una cosa che invece è stata rinviata, e quella sì poteva essere effettivamente importante, era tutto il discorso sulle incompatibilità, soprattutto per l'alta burocrazia, che sappiamo, questo è un problema che ogni tanto anche la stampa solleva, di alti burocrati che hanno spesso diversi incarichi e che girano questi incarichi in una ristretta cerchia di persone che un po' controllano tutta l'amministrazione pubblica, e questo probabilmente è stato bloccato ed è questo che forse doveva essere attaccato, ma anche perché è uno di quei problemi, l'incompatibilità, che è molto contiguo anche con la politica. No? Noi adesso siamo onorevoli senatori, è da tanto tempo che si dice, ma è giusto che gli onorevoli senatori facciano gli altri mestieri, cioè i mestieri che facevano prima, facciano gli avvocati, facciano i medici. Io penso che questo sia un problema molto importante che altri paesi hanno affrontato e che noi dovremmo affrontare. Se ne parla poco, ma oltre al tagliare il numero dei deputati, oltre a tagliare gli emolumenti, anche questo delle incompatibilità, sia per, diciamo così, la politica che per l'alta burocrazia, sarebbe di grande esempio. Per il resto sì, insomma, non c'è molto molto di nuovo, se non dare questo messaggio. Quindi ha ragione Focillo quando dice, beh, insomma, se si vuole riorganizzare la pubblica amministrazione bisogna fare molto molto più di questo, perché altrimenti poi succede quello che prima lei aveva osservato, no? Che poi si taglia così in modo indiscriminato e magari poi non c'è neanche la carta igienica. Vuol dire che anche i tagli che ci sono stati in questi ultimi anni, sia dal punto di vista del mancato adeguamento degli stipendi all'inflazione che non c'è stato, sia come riduzione del numero di dipendenti, almeno 200-250 mila, sì, sì. Però si ha l'impressione che siano stati tagli così un po' a casaccio, che rischiano magari di diminuire anche i servizi invece che migliorarli. Senta, da questo punto di vista della ringa io devo chiudere, però una cosa, secondo la sua conoscenza della pubblica amministrazione, sarà possibile per un governo prima o poi fare una vera spending review che non riduca l'efficienza e anzi l'aumenti, ma vada a tagliare gli sprechi? Perché su questo poi tutto è caduto nel silenzio, cioè ci ha provato Bondi, 400 milioni, certo. Voglio dire, 0,4%, immagina se tu vai da tua moglie e gli dici bisogna risparmiare in questa casa, e lei ti dice ok, questo mese risparmierò lo 0,4%, voglio dire, uno si arrabbia pure, cioè non è con lo 0,4% che possiamo risolvere i problemi della spesa complessiva, perché in rapporto al PIL siamo in media con l'Europa, ma degli sprechi, delle consulenze, qualità dei servizi, però noi ci inventiamo le spending review nel momento in cui bisogna tagliare, invece la spending review, una valutazione, l'approccio organizzativo dell'efficienza organizzativa ai pubblici servizi dovrebbe essere sempre lì, pronto ad essere utilizzato, dovrebbe essere una macchina oliata che funziona bene, come fa qualsiasi impresa, che ogni tanto si fa analizzare, no? Anche da magari società esterne che fanno per mestiere quello di analizzare l'organizzazione delle altre imprese, e si fanno dire che è possibile mantenere la qualità dei servizi riducendo i costi del 10-15%, e lo dicono in che modo fare, anche magari attraverso esternalizzazione, attraverso un uso migliore dell'ITC. Ecco, questo che sono i piani industriali delle aziende, noi non abbiamo questa mentalità organizzativa, abbiamo una mentalità giuridica, e nel momento in cui occorre poi tagliare, non avendo dei piani, dei progetti industriali, amministrazione per amministrazione, che si fa? Si taglia il 10% a tutti, che dal punto di vista politico spesso è accettabile, perché tutti dicono, beh, in fondo tagliano tutti e quindi ci devo stare anch'io, perché sarebbe più difficile, certo, dire tu devi tagliare 15% e tu dell'1%, ma questa discrezionalità si presuppone prima una forza politica autorevole e secondo una conoscenza dei problemi organizzativi, ma certo, che può venire solo da un'attività che va a fondo nei problemi delle singole amministrazioni. Queste, nonostante tutte le riforme che abbiamo fatto, le valutazioni, i nuclei, eccetera, non abbiamo mai fatto veramente una struttura in grado di arrivare a queste conclusioni, anche facendosi aiutare, certo, da entità esterne che lo fanno per mestiere. Allora, grazie intanto a Carlo Della Ringa. Vedo che alcuni di voi con un po' di fantasia si offrono di fare le bandiere per i gonfaloni per la Regione Calabria, che ne ha pagate, dovrà il dato, 12 bandiere tricolore, le ha pagate 10 bandiere, le ha pagate 12.000 euro, 1.250 euro l'una. C'è una sarta che ci scrive che lei gli avrebbe fatta 150 euro l'una. ...17:43, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo di borsa adesso, che è andata bene, più 1,60% Milano, più 1,20% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,60% anche Londra, euro a quota 1,29%, bene Fiat, più 5,50%, Finmeccanica più 5,50%, media 7 più 4,40%, A2A più 4,20. Molti titoli da commentare. Partiamo subito allora con Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, ciao. Fiat e Finmeccanica. Fiat è stato un po' il caso del primo pomeriggio di borsa, perché avanzava all'incirca del 2-2,5%, poi subito dopo pranzo ha avuto un'impennata improvvisa, è arrivata a guadagnare, è finita soprattutto in asta di volatilità, quindi il titolo è stato praticamente sospeso, aveva un guadagno teorico del 10%, un balzo che neanche gli operatori sono riusciti a spiegare fino in fondo. Poi il titolo è rientrato in contrattazione e ha chiuso comunque il rialzo del 5,5%, pare improbabile comunque che un rialzo di questa portata sia legato all'accordo raggiunto con i sindacati oggi sul contratto collettivo. Infatti quello è un contratto importante, ne parlavamo, 40 euro lordi in più da febbraio, ma dubito che il titolo reagisca per questo, insomma. Reagirà anche per questo, ma insomma ci deve essere anche qualcos'altro, perché è veramente forte, più 5,53%, mentre su Finmeccanica? Che invece ci sono dei passi, importanti passi in avanti fatti ieri dal Consiglio di amministrazione, che ha introdotto queste norme per la governance e il controllo interno, ma anche in questo caso segnalano gli operatori non si tratta di elementi tali per giustificare un rialzo, che invece può essere spiegato con altri due fattori, il fatto che Finmeccanica venga da una serie di sedute negative e il fatto che il mercato forse adesso torni a scommettere su una ripresa delle possibili dismissioni. Ancora, media 7 più 4,40, poi arriviamo alle banche e vorrei però far paio con Autogrill meno 3,80 e Diasorin meno 6,40, anche Campari debole, qui fossi i conti deludenti di queste tre, quindi Autogrill, Diasorin e Campari in negativo e in positivo Mediaset. Assolutamente, Campari aveva dato i dati l'altro ieri, erano stati dei dati non brillantissimi, infatti il titolo era andato subito in grossa difficoltà, aveva perso oltre il 4%, oggi continua a pagare dazio, pagano dazio anche di Assorin che perde più di 6 punti percentuali, qui sono calati le principali voci del bilancio, l'utile netto è sceso del 12%, ma soprattutto la società prevede per quest'anno un EBITDA sostanzialmente in linea a cambi costanti, quindi fondamentalmente non aumenterà la redditività del gruppo. Per quanto riguarda Autogrill, anche qui un calo significativo, meno 3,8%, anche in questo caso l'utile è calato del 23% e soprattutto non è stata data nessuna indicazione su un eventuale dividendo per gli azionisti. Ancora A2A, bene, sulle ho visto le dichiarazioni di Tarantini, no? Il presidente del consiglio di gestione, forte il titolo, più 4,20. Sì, Tarantini ha ribadito insomma che quest'anno ci sarà un dividendo e questa diciamo che era una cosa abbastanza scontata, ha ribadito che il payout massimo, cioè la percentuale di utili che sarà distribuita al netto delle operazioni straordinarie, sarà pari al 60%, anche questa cosa era in fin dei conti nota, però c'è il fatto che settimana prossima la società approverà il bilancio, quindi gli operatori sono un po' tutti in attesa febbrile appunto per questi numeri e quindi anche queste dichiarazioni oggi hanno fatto il loro effetto. Ultimo titolo, Telecom, insomma una settimana molto intensa, la cessione di La 7, l'ufficializzazione della cessione, il titolo guadagna il 4% oggi. Un titolo che si risolleva dai minimi e poi insomma gli operatori hanno tra virgolette premiato la nuova pulizia di bilancio che è stata fatta sugli avviamenti, cioè sulle attività immateriali. Già l'anno scorso Telecom aveva effettuato una messa in trasparenza di quello che è il reale valore poi degli avviamenti, quest'anno è intervenuta nuovamente, svalutazioni per 4,4 miliardi, perdite per 1,6 miliardi, cedole per poco meno di mezzo miliardo. la scommessa degli operatori che con quest'anno la pulizia di bilancio sia finita e dell'anno prossimo la società possa tornare inutile. Grazie, buon fine settimana, ciao Condine, a tutti i colleghi di Radio Corriere Sulle 24 Ore. Il miglior titolo ERG più 7,21%, il peggior titolo di Asorin, lo commentavamo, meno 6,40% dopo i conti. Allora, c'è chi dice di Fiat, ne sappiamo come prima, e mi invita a dimettere, è sempre Fabio che mi chiede di dimettermi ogni giorno praticamente, mi dia un po' di tempo, ero un po' impegnato. Ho capito Fabio, ma non è che posso inventarmi il commento su Fiat o chiedere a Cio Condina di creare in maniera futurista spiegazioni su perché Fiat guadagna? Se non lo sa, se oltre l'accordo non c'è altro, questo dobbiamo dirvi per onestà, se no, se lei ha altre informazioni me lo scriva, così mi dimetto veramente, lei viene al posto mio. Invece invito altri ascoltatori a non fare il solito gioco: ah, ma anche la regione Liguria spende come la regione Lombardia, lo sappiamo, però dire che c'è anche un'altra, noi cerchiamo di fare l'elenco delle varie regioni al di là del colore politico di cui non ci frega nulla, però non è una gran risposta dire ma anche la regione accanto ha i vitalizi e situazioni analoghe a quelle che abbiamo raccontato della regione Lombardia, che è chiuso, i lavori chiusi dal 19 dicembre, ma 9.000 euro di stipendio tutti i mesi fino a marzo i consiglieri li prendono. Scusate, una nota di servizio, non posso mandare gli auguri, veramente è una cosa che fanno le radio, musicali, cose così. Però insomma è inutile che le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Casetta mi dicano ci mandi gli auguri, non lo posso fare, dai. Solo perché l'8 marzo vi ho citato, solo perché l'8 marzo. Invece le banche in borsa, avete ragione, non le ho dette tutte, Mediobanca più 3,91, Banco Popolare più 3%, ancora Unicredit più 2,80%, e poi Intesa più 1,70, Popolare di Milano più 1,50, Ubibanca più 1,30, Emilia Romagna pure, e basta direi. Il Monte dei Paschi perde l'1% invece. Il motivo per cui le banche crescono è soprattutto uno spread in calo, anche sotto i 300 punti in alcuni momenti. Restiamo in tema di banche, però, per quella notizia che abbiamo ricordato in apertura. E cioè la Banca d'Italia certifica che anche a gennaio sono calati i prestiti delle banche alle famiglie e alle imprese. In realtà, se si va a vedere, alle famiglie sono scesi dello 0,6% rispetto a gennaio 2012. Quelli per le imprese sono calati pesantemente, meno 2,8% e già meno 2,2% a dicembre. Sapete che la diatriba è sempre la solita, le banche dicono sono gli imprenditori che con fatturati in calo, con ordini in calo, con l'economia in recessione non ci chiedono i soldi, traduco in maniera un po' brutale, perché l'economia è in rallentamento, e dall'altra parte gli imprenditori dicono no, sono le banche che hanno avuto un giro di vite, l'ordine di fare un giro di vite. Oggi su questo ho preso una posizione netta il Centro Studi Confindustria, ringrazio il suo direttore Luca Paolazzi, buonasera Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, in questa vexata question, è chiaro che probabilmente c'è un po' anche di tutte e due, ci saranno anche meno imprenditori che vanno a chiedere investimenti perché con l'economia ferma. Però voi dite, attenzione, il calo è dovuto alla riduzione dei prestiti da parte delle banche e non dalla riduzione della domanda da parte degli imprenditori. Come fate, tra virgolette, a esserne così sicuri? La metodologia è semplice, noi guardiamo i dati di tipo qualitativo, cioè guardiamo un'indagine che viene fatta dalla stessa Banca d'Italia presso le banche, a cui viene chiesto sia informazioni riguardo all'andamento delle condizioni di prestito e quindi alla volontà e alla capacità di prestare delle banche, sia diciamo alla domanda. Ora, in tutte, diciamo, durante questa crisi si è sempre verificata prima una restrizione delle condizioni di credito da parte delle banche e poi, a causa della recessione che è subentrata, anche un calo della domanda. E questo, diciamo, l'andamento dei prestiti in sé non ci dice nulla su chi viene prima, se l'uovo o la gallina in questo caso, perché diciamo è un dato, certo, a posteriori, fotografa una situazione ma non ci dice nulla sulle intenzioni di prestito delle banche e sulle intenzioni di richieste di prestito da parte delle imprese o delle famiglie. L'altro aspetto che però vorrei sottolineare è che in questo nostro documento non è che ci limitiamo a fare questo tipo di analisi, noi diciamo che in questo momento siamo tutti in una barca che sta imbarcando acqua paurosamente in un mare che all'esterno d'Italia è meno tempestoso ed è per questo che alla fine il nostro spread anche cala e la borsa sale, ma diciamo noi siamo in grave difficoltà. Allora, in questo contesto il circolo vizioso credit crunch, recessione può essere spezzato solo da politica economica e un intervento deciso. Oh. E quindi, siccome dopo avrò Daniel Grosso ospite, immagino che difenderà la linea dell'austerity tedesca, domani sta uscendo una bozza del Consiglio europeo, che la prossima settimana si terrà a Bruxelles, in cui si parla di un austerity però a favore della crescita, cioè un po' più morbida. Secondo te, in 30 secondi, è una bestemmia ipotizzare che uno vada a vedere se il deficit che uno Stato ha è buono o cattivo, cioè se tu spendi per infrastrutture, investimenti, riduzione fiscale, oppure se spendi per sprechi e per stipendi inutili? Ma questo fa già parte, diciamo, dell'analisi che la Commissione fa. Il punto fondamentale che noi sottolineiamo è che in questo momento ci vuole una terapia shock e noi individuiamo sul fronte del credito il pagamento di almeno 48 degli oltre 70 miliardi che la pubblica amministrazione deve al sistema di imprese. Questo pagamento innescherebbe un aumento di investimenti da parte delle imprese stesse di almeno 10 miliardi nell'arco di 3 anni, abbasserebbe il rating delle stesse, alzerebbe il rating, nel senso che lo migliorerebbe, quindi migliorerebbe le condizioni creditizie e la possibilità delle banche di prestare alle imprese, sarebbe uno sblocco della situazione. Chiaro che questo significa far emergere un debito pubblico occulto e quindi far aumentare il debito pubblico ufficiale. E allora, come promesso, di nuovo in diretta, chiaramente parliamo di Europa e del rapporto tra Italia e Europa, nel senso che è passata un'altra settimana senza governo per l'Italia, come ricordavamo anche in apertura. Sui mercati non c'è tutta questa tensione, nel senso che lo spread, piaccia o non piaccia, è sceso a 302 punti, lo ricordo ancora, ai minimi, il livello più basso dopo il voto elettorale. I mercati hanno avuto una settimana, per carità, altalenante, ma nulla di drammatico, e quindi la sensazione è che per quello che riguarda i mercati stiano ancora alla finestra a guardare quello che succederà in Italia. Certo, resta il tema, poi, ed è rimasto anche lungo tutta la settimana, di un'austerità fine a se stessa, cioè un'austerità senza obiettivi, senza orizzonti, chiesta a gran voce soprattutto dalla Germania, che secondo alcuni, penso all'economista Paul de Grauwe, consulente di Barroso, rappresenterebbe un suicidio politico in Europa. Ha detto infatti nella settimana De Grauwe: una politica fatta di austerità ad ogni costo rischia di dilazionare la ripresa italiana, l'Europa ha colpe enormi. E a questo si aggiunge anche una posizione più scettica degli olandesi, che hanno detto di no in questa settimana a nuove politiche di austerità, e lo abbiamo raccontato, il tutto con sullo sfondo un euroscetticismo che in Germania era già presente, ma in settimana ha avuto nuove iniziative. Adesso tocca anche la Gran Bretagna, che dell'euro è fuori da sempre, diciamo, di fondo euroscettica. Vorrei fare il punto delle attese sull'Italia, ma anche dei dubbi che stanno arrivando da più parti sulla sola austerity, non che l'austerità non vada bene, ma la sola austerità, il solo rigore, gli effetti che sta producendo anche a livello politico, con chi studia queste cose da sempre, ossia Daniel Gross, che è presidente del CEPS di Bruxelles, quindi del Center for European Policy Studies. Buonasera, Gross. Buonasera. Partiamo dall'Italia e poi andiamo, diciamo, su a salire all'Europa. Oggi l'economista Nuria Rubini dal workshop Ambrosetti di Cernobbio. Rubini è stato l'economista reso celebre per il fatto di aver anticipato per primo la crisi che poi sarebbe scoppiata. Ha detto: in Italia ci saranno elezioni entro un anno. E ha aggiunto: ci stiamo muovendo verso nuove elezioni nei prossimi mesi, comunque entro l'anno. Le forze populiste che sono contro l'austerità si rafforzeranno e questo porterà incertezza finanziaria sull'Italia. Al di là delle previsioni di Rubini, oggi però registriamo uno spread a 302 punti, come ricordavamo, e un Mario Draghi che ieri, Presidente della Banca Centrale Europea, ha detto: ma non vi preoccupate, adesso aggiungo io, non vi preoccupate, l'Italia proseguirà sulle sue riforme, c'è il pilota automatico. Se a questo appunto uniamo anche il fatto che i mercati siano calmi, le chiedo, Gross, quanto tempo secondo lei l'Europa politicamente, ma soprattutto l'Europa finanziaria, i mercati finanziari, potranno restare alla finestra? Anche per molto tempo, perché bisogna distinguere tra due cose. Dal punto di vista fiscale, la politica fiscale, Monti ha fatto quasi tutto, per cui anche uno scenario belga in cui non c'è il governo, diciamo anche per un anno, per la politica fiscale stessa non è così negativo, perché anche se l'Italia fa niente, il deficit oramai è sotto controllo. Questa secondo me è la ragione per cui i mercati sono molto calmi. Le riforme, le famose riforme strutturali del mercato del lavoro sono un'altra cosa. Penso che Draghi non abbia ragione, nessuno qui a Bruxelles almeno per il momento si aspetta delle riforme dall'Italia. Ci si aspetta un periodo molto convulso in cui sarà molto difficile fare una politica attiva delle riforme. Ma finché non si tocca la politica fiscale non c'è grande pericolo, per cui sia Bruxelles che i mercati possono aspettare per un po' di tempo. Quindi lei su questo mi sembra, non dico ottimista, no, però non allarmato. Le dice le manovre, le politiche fiscali in Europa vuol dire le manovre sul deficit, sul debito, le manovre finanziarie. Monti le ha già fatte e quindi c'è un po' di margine. Lei non ritiene che Draghi abbia ragione nel dire che tanto l'Italia ha il pilota automatico e che sulle riforme vi saranno dei problemi, ci sarà un periodo di confusione. Però diciamo c'è un certo margine temporale. Che cosa potrebbe far peggiorare la situazione, e soprattutto se vi fosse un governo, diciamo, di scopo tecnico, chiamatelo come volete, che ha l'obiettivo di portare poi eleggere il Presidente della Repubblica e poi andare a nuove elezioni con una nuova legge elettorale e magari anche con una riduzione dei parlamentari, secondo lei sarebbe preferibile un governo che comunque cerchi una maggioranza o un governo a termine per nuove elezioni? No, per chi sta all'estero l'importante è che ci sia un governo che magari faccia, cambi qualcosa nelle istituzioni per garantire la futura governabilità del paese. Che sia di maggioranza o no, poco importa, importerebbe solamente il risultato. Naturalmente tutto questo è stato sottinteso che la politica fiscale non si tocca, rimane lì, il deficit rimane sotto controllo. Le manovre finanziarie, perché politica fiscale non vuol dire un'altra cosa, le manovre, cioè il deficit, sì. Gli obiettivi di deficit. Deficit. Sì, sì. Il deficit deve rimanere sotto controllo e per le riforme poi bisogna realisticamente aspettare che ci sia il nuovo assetto istituzionale del paese e magari a questo punto quello che secondo me Draghi ha auspicato più che veramente aspettato, questo poi potrebbe avvenire. Ma riforme vere sono improbabili finché l'assetto istituzionale del paese non sia stato ritoccato. E per quello che riguarda invece, cioè, forse non mi sono fatto capire, ma lei dice i mercati preferiscono l'Europa un governo, anche se diciamo di scopo, di qualunque tipo, piuttosto che nuove elezioni? Qualunque cosa porti a... come dire, delle riforme istituzionali che rendano più facile governare il paese. Ah, ok, quindi un governo che facesse la riforma elettorale e magari riducesse anche il numero di parlamentari, aggiungo io, sì. Per poi andare alle elezioni, ma e garantisse comunque la stabilità del paese, è la cosa auspicabile. Ho capito bene? Giusto. Sì. Allora, senta, dopo le informazioni per chi è in viaggio, invece vorrei allargare il tema all'Europa, ossia alle critiche che stanno arrivando all'austerità, non solo dal capo economista del Fondo Monetario, ma anche dall'economista di Barroso, dall'Olanda che non la vuole votare, e cioè che la sola austerità, voglio essere chiaro, non l'austerità in quanto tale, ma senza altri obiettivi, orizzonti, senza dare altre speranze, sta portando l'Europa in un avvitamento in recessione, l'area euro, con l'aumento della disoccupazione e con una conseguenza anche politica, perché poi con la pancia si vota in un certo modo, e non tanto l'euroscetticismo, ma l'avversione per questa Europa sta montando. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. In collegamento con noi, lo ricordo, da Bruxelles, il presidente del Center for European Policy Studies, Daniel Gross. Allora, la domanda, lasciando stare, adesso abbiamo capito che cosa lei immagina e ritiene che si aspettino i mercati. Tra l'altro devo dire che non è nemmeno una brutta notizia quella che lei ci ha dato, perché ha detto, avendo Monti fatto le manovre finanziarie, i mercati possono attendere ancora un po', non sono a rischio i conti dell'Italia in questo momento. Ecco perché vediamo lo spread, tutto sommato, non dico basso, ma sicuramente non alto, 302 punti. Però insomma, dicevo, De Grauwe, l'economista consulente di Barroso, dice la politica dell'austerità è un suicidio. Lo aveva detto anche il capo economista del Fondo Monetario. L'Olanda in settimana non ha voluto votare nuova Italia e nuova austerità. C'è stata la manifestazione in Portogallo, abbiamo avuto dati sulla disoccupazione giovanile e in generale dell'area euro record, tranne che in Germania e nel nord Europa. Lei non ritiene che dopo il voto italiano, Gross, la riflessione su quello che sta producendo la sola austerità, senza politiche di sviluppo, di rilancio, senza distinguere tra deficit buono e deficit cattivo, non sia solo più un problema economico e quindi della recessione, stagnazione, crollo dei consumi, disoccupazione a cui ha portato l'Europa, ma stia diventando anche un problema politico? Cioè ci sono partiti che iniziano a cavalcare, ad avvantaggiarsi di questa avversione verso il solo rigore dell'euro? È senz'altro un problema politico, ma bisognerebbe prima chiedersi se è anche veramente un problema economico. Lì ci sono due cose che spesso non si dicono o non si prendono in conto. Il primo è questa impressione che ci sia l'Europa che si accanisce verso l'austerità. Invece se uno fa il confronto tra gli Stati Uniti e la zona euro, si vede che il deficit scende ancora di più negli Stati Uniti che in Europa. E si vede anche in questo momento ci sono questi tagli automatici negli Stati Uniti che vengono applicati. Per cui nella realtà l'austerità è molto più feroce oltreoceano che qui da noi. Secondo punto è che naturalmente qui molti paesi non hanno scelta. L'Italia non poteva continuare con deficit al 5-6% e la Grecia con i deficit che aveva era assolutamente impensabile. Naturalmente è anche chiaro che non ci vuole solamente l'austerità, ci vogliono anche le riforme. Ma chi decide a fare le riforme? L'Italia ha fatto l'austerità, l'ha fatto Monti, ma le riforme non le ha accettate. Il paese non lo ha accettato. E questo non è tanto la colpa dell'Europa, ma sono le scelte politiche fatte in ogni paese. L'Europa può solamente dire fate l'austerità e fate le riforme, fateli tutti in due insieme, ma se i paesi poi scelgono a fare solamente la metà, non è tanto la colpa dell'Europa. Però voglio dire, in Europa non si è ancora mai discusso, a parte della garanzia sulle banche, sul fondo anti-spread, salva stati, di politiche di, mi passi il termine, keynesiane, cioè che permettano o a livello europeo o come singolo Stato di distinguere, per esempio, se tu spendi soldi per costruire un ponte, un'infrastruttura o un vantaggio fiscale, oppure se li sprechi in consulenze e in una pubblica amministrazione inefficiente, cioè qualcosa per rilanciare un'Europa obiettivamente in difficoltà andrebbe anche fatto, o continuiamo a dire che l'unico obiettivo è il fiscal compact, cioè 50 miliardi per l'Italia di tagli all'anno per i prossimi 20 anni? Ma sono i paesi stessi a decidere. Alla Grecia è stato chiesto di ridurre il peso del governo e mantenere spese per investimenti. Cosa hanno deciso i greci? Il contrario. Anche per l'Italia. L'Italia avrebbe potuto già da molto tempo diminuire il costo della politica e destinare queste risorse agli investimenti. Non è stato fatto così. Poi bisogna anche ammettere che in Italia e in molti altri paesi le spese per investimenti pubblici spesso producono risultati molto scarsi. Bisognerebbe magari prima riformare la macchina amministrativa per essere sicuri che queste spese poi portino veramente a risultati positivi, cioè aumentino la produttività. Per cui non è secondo me la colpa dell'Europa è che questi passi per aumentare il potenziale di crescita non vengano intrapresi, ma sono le scelte autonome fatte in molti paesi, perché il peso politico di chi riceve dei sussidi, di chi ha un lavoro nella propria assumersione è molto più alto. Tra l'altro oggi però il vertice, c'è un'agenzia che riporta che la bozza delle conclusioni del vertice europeo della prossima settimana, quello importantissimo di metà, del Consiglio europeo di metà marzo, dirà che servirà un consolidamento fiscale, cioè delle manovre sui conti pubblici, differenziato, amico della crescita. Serve un risanamento amico della crescita. Lei in questa indiscrezione sulla bozza non vede un cambio anche un cambio politico di rotta rispetto al mantra dell'ultimo anno in cui bisognava solo rimettere a posto i conti? Perché risanamento amico della crescita inizia a essere un qualcosa da interpretare, no? Ma no, questo si avrebbe potuto scrivere un anno fa, 2 anni fa, anche 3 anni fa. Ricordo che un anno fa si è fatto un patto per la crescita, di cui il risultato? 0, non si vede niente. L'Europa non può fare la crescita nei Stati membri, quello lo devono fare gli Stati membri loro stessi, con le loro scelte che fanno ogni giorno, che ha fatto anche il governo Monti, come tagliare il deficit. Lo poteva fare tagliando le spese, invece ha scelto di aumentare le tasse. Questo naturalmente non aiuta la crescita. Quindi lei non pensa che questo sia un primo passo verso un'Europa che anche distingue tra spesa? Perché secondo me mettere assieme le consulenze con gli sprechi, con gli investimenti veri, non lo farebbe nessuna impresa. Cioè qualunque impresa sa che se spende dei soldi per un macchinario è un investimento, non è un deficit, non è un qualcosa che esce. È vero che ce l'hai nel conto economico, ma ti serve per produrre di più. Se spendi gli stessi soldi in così consulenze inutili o sprechi anche di inefficienze interne perché hai un personale che lavora male, quelli sono sprechi e basta. Cioè non bisognerebbe iniziare a distinguere tra quando uno Stato spende, no? È tutto deficit uguale? No, ma l'Europa già lo sta facendo e tutte le raccomandazioni per l'Italia, anche per la Grecia e altri paesi, era tagliate la spesa corrente, non aumentate le tasse e mantenete la spesa per investimenti. Poi l'Europa non può entrare poi troppo nei dettagli delle scelte. Se l'Europa fosse entrata in Italia un anno fa, avrebbe detto a Monti adesso l'Italia deve tagliare i dipendenti pubblici di 100.000 di persone, diminuire gli stipendi e fare altre cose, ci sarebbe stata una resistenza fortissima. Per cui, ripeto, l'Europa può farci poco in queste scelte che sono veramente scelte nazionali. Ultimo aspetto, lei riconosceva che c'è un elemento comunque politico in questa austerità e anche dal voto italiano, cioè il ragionamento sull'austerità ormai non è più solo un ragionamento economico, l'euroscetticismo. Allora, noi non voglio fare forzature giornalistiche, in Germania già esisteva, adesso è nato anche il Partito Alternativa per la Germania che non vuole salvataggio ai paesi in difficoltà. Però l'euroscetticismo a Londra già esisteva, oggi però Nigel Farage, che è il leader degli euroscettici britannici, ha incontrato Rupert Murdoch. In Italia il sondaggio di oggi dell'Eurobarometro che citavamo dice che solo il 2% degli italiani crede che l'Unione Europea abbandoni l'euro. Lei non teme che in realtà l'Italia sia stato solo il primo caso così forte, la Grecia contava meno, ma che se non si cambia rotta i partiti, giustamente, perché ogni partito cerca di intercettare anche un malumore, un mal di pancia nella collettività, nella società, cavalcheranno, o alcuni partiti chiaramente potrebbero essere sempre più tentati di cavalcare non un euroscetticismo tout court, ma un'avversione a questo tipo di Europa che poi trasformerebbe tutto in un problema solo politico? No, è chiaro che quando le cose vanno male la gente si dice ma questa Europa cosa serve? Siamo tutta questa austerità, la tentazione per i politici è chiara, ma l'euroscetticismo in Germania c'è sempre stato, c'è stato 15 anni fa addirittura un partito che voleva mantenere il marco, questo partito ha avuto lo 0,1% dei voti, per cui io non penso che questo sia una cosa importante in Germania. In Inghilterra che siano scettici verso l'euro europea è saputo, ma non influenza molto. Il cardine dell'Europa rimane l'Italia, cioè, l'euro si fa e si disfa a Roma, a Milano, cioè in Italia, finché gli italiani scelgono di voler mantenere l'euro, perché per loro è sempre un'ancora di stabilità, l'euro sopravvivrà ed è lì che l'euroscetticismo va combattuto e potrebbe essere, come dire, veramente una mina vagante per l'Europa. Per il momento comunque spero che questo non avvenga in Italia. Quindi la sopravvivenza dell'euro si decide in Italia? È chiaro, perché l'Italia è sistemica, l'euro al limite potrebbe anche sopravvivere all'uscita della Grecia, ma l'Italia con la sua economia che conta sempre per un quinto di quella dell'area dell'euro, il suo debito pubblico è importantissimo, anche le sue banche e tutte le relazioni finanziarie con il resto dell'Europa è decisiva. Senza un'Italia stabile, senza un'Italia che mantiene i patti con l'Europa, l'euro non può sopravvivere, questo è chiaro. Di nuovo, ripeto, per il momento qui a Bruxelles dappertutto si pensa che l'Italia invece sceglierà di fare quello che è necessario per poter rimanere nell'euro ed avere anche questo, ma con questa cosa anche avere una politica economica che la renda competitiva e che renda il debito sopportabile. È tutto un pacchetto di misure che vanno prese prima o dopo. Chiarissimo il suo ragionamento, non è allarme adesso, ma l'euro sopravviverà in base a quello che farà l'Italia. Sintetizzo io, grazie al presidente del Center for European Policy Studies, Daniel Gross. È veramente tutto per questa puntata, ma non manca che ringraziare come sempre, come ogni settimana, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di un buon fine settimana, in ogni caso che uno lavori oppure no. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.